1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, quando sono le 7:19 minuti in punto in questa giornata di giovedì. Allora, parleremo del caso De Luca con Oscar Giannino, parleremo ovviamente dell'inchiesta che sta coinvolgendo il governatore della Campania, che dice però io sono parte lesa di tutto questo, fa anche un'intervista oggi, un'unica intervista all'Unità, intervistato dal direttore Erasmo D'Angelis, la vedremo tra poco. Parleremo di questo, avremo Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, avremo ovviamente il vostro contributo, cari ascoltatori, 800 24 00 24, il numero di telefono, dalle ore 8 i centralini saranno aperti per voi. Parleremo però anche di altri temi che troviamo sviluppati sui giornali che andiamo a sfogliare. È il 12 novembre e i titoli delle aperture dei quotidiani: il Sole 24 Ore apre sulla corsa ai bot a 12 mesi, porta i tassi sotto zero. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Corriere della Sera ha un'intervista al presidente dell'Iran, Rouhani, che sarà in Italia, a Roma, da sabato. Iran pronto a una nuova era, questo è il titolo di prima pagina. Poi il caso De Luca per gli altri quotidiani. Il Messaggero, De Luca, la telefonata del giudice. La Stampa, De Luca, io parte lesa, ma c'è la telefonata che rivela la sentenza. Il Giornale, PD e procure inquinate. Libero, De Luca indagato, rottama il PD. Il Fatto Quotidiano, ok, vediamoci con De Luca, ma lui non denunciò il ricatto. Repubblica, assedio a De Luca, nuova inchiesta sul voto campano. Il Manifesto, le dame di San Vincenzo, bufera sulla regione Campania. Come vedete, quasi tutti i quotidiani aprono su questa notizia. L'Unità, che paradossalmente è l'unico quotidiano che ha l'intervista a De Luca, apre invece sulla scuola. Mai più precari, la scuola pubblica riparte dalle assunzioni. Avvenire invece, Unione Europea-Africa si tratta, il vertice per la regolazione dei flussi migratori. E tra l'altro la notizia di una nuova strage nell'Egeo, morti anche 7 bambini, questa è la vicenda. Ma voglio partire dall'ultima vicenda che coinvolge la Chiesa, o un esponente della Chiesa, sarebbe meglio dire, l'ex abate di Monte Cassino, Monsignor Pietro Vittorelli, accusato di riciclaggio e accusato in sostanza di essersi intascato, grazie anche al fratello, 500.000 euro di soldi dei fedeli, delle offerte dell'8 per 1000 destinate ai poveri. Per fare cosa? Beh, fare giri in tutto il mondo in hotel di lusso, fare festini, su Dagospia c'era scritto per la verità festini gay, a base anche di ecstasy, la droga, viaggi a Rio de Janeiro, viaggi e cene con ostriche e champagne. Tutto ciò, hotel di lusso, ecstasy, viaggi del vescovo a Rio coi soldi dell'8 per 1000, è il titolo di pagina 20 del Corriere della Sera, ma un po' ovunque. Repubblica, scandalo a Monte Cassino, così l'ex abate rubava i soldi destinati alla carità. È arrivato a spendere fino a 34.000 euro in un mese con la carta di credito. Massimo Gramellini, prima pagina della Stampa. Monte Cassino. L'ex abate di Monte Cassino, dicesi l'ex abate di Monte Cassino, è accusato di aver dirottato almeno 500.000 euro dalle tasche dei fedeli alle proprie, soldi della carità che si disperdevano nei conti correnti di suo fratello per poi convergere miracolosamente in un fondo a disposizione del santuomo, una gigantesca presa per il culto. Sarà pure vero che l'abito non fa il monaco, qui non fa neanche più l'abate. Si è travolti da un senso di smarrimento nell'accorgersi che a far sparire le galline dal pollaio non sono più le volpi, ma i guardiani. Succede nella macchina dello Stato e adesso perfino nei luoghi in cui Benedetto da Norcia ha detto la regola ora et labora, che l'abate Vittorelli ha liberamente tradotto ora si lavora per me. e dove un tempo ad assediare l'abbazia erano gli alleati contro i nazisti, mentre oggi sono i credenti turlupinati al punto da passare per creduloni. Nel 2013 l'abate Manolesta fu indotto alle dimissioni da un provvidenziale problema di cuore e al suo successore vennero sfilati i poteri sulle finanze del monastero, segno che qualcuno dentro la chiesa sapeva, ma che come al solito preferì soffocare lo scandalo nella speranza che non scoppiasse. Ci lamentiamo da anni di una classe politica impresentabile, però tra pedofili, ladri, crapuloni, venditori di indulgenze, non è che quella ecclesiastica se la passi molto meglio, con buona pace dei tanti preti per bene che ogni giorno mandano avanti la baracca. Questa chiesa, che Papa Francesco vorrebbe inquieta, ai piani alti si sta rivelando inquietante. Così Monte Scassino sulla stampa. Tra l'altro, a proposito di chiesa, la notizia del giorno che riguarda invece i due giornalisti, Gianluigi Nuzzi e autore di Via Crucis, Emiliano Fittipaldi, che ha scritto Avarizia, è che sono entrambi indagati in Vaticano. Sono indagati, ha detto padre Lombardi, per avere sottratto carte. Indagati in Vaticano i due giornalisti. Tra l'altro Emiliano Fittipaldi rilascia una breve intervista al Fatto Quotidiano e dice: me l'aspettavo, fa parte del mestiere, quando racconti verità spiacevoli su un potere come quello temporale della Chiesa devi mettere in conto la probabilità che ci possa essere una reazione proporzionale alla portata della notizia che hai dato. Ma io dico, ho fatto solo il mio lavoro, trovare informazioni, raccontare la verità. Sono sereno. Il dubbio è: il Vaticano ora chiederà una rogatoria internazionale per indagare su Nuzzi e su di lei? Confesso di non essere esperto di sacra rota e diritto canonico, ma mi pare evidente che il Vaticano non ha un articolo 21 della Costituzione che tuteli la libertà a informare e a essere informati. Così Emiliano Fittipaldi, che ha scritto Avarizia. Inquisizione per i giornalisti, titola il Fatto Quotidiano pagina 5. Nuzzi e Fittipaldi indagati. Anche il Messaggero dedica una pagina a questa vicenda. Saltando a una storia diversa, vi segnalo che cosa? Beh, il Giornale racconta questa storia che riguarda Bettino Craxi e Stefania, la figlia. Stefania Craxi condannata a pagare 678.000 euro. Anzi, 676.000 euro. È un'imposta di registro dovuta per lo Stato e anche per una sentenza della Cassazione per la condanna nel 98 a 4 anni e 6 mesi al padre Bettino nel processo per le tangenti della metropolitana milanese, corruzione e illecito finanziamento ai partiti, era la condanna, questo era il reato. E ora lo Stato perseguita Craxi, questo è il titolo del Giornale a pagina 5, Anna Maria Greco racconta come la figlia debba pagare 676.000 euro. Ha fatto ricorso Stefania Craxi, la Cassazione ha bocciato il ricorso contro questa cartella esattoriale legata all'imposta di registro per questa condanna risalente al 98. Stefania dice: è una vergogna. Evidentemente le colpe dei padri, scrive il Giornale, devono ricadere sui figli, almeno se ti chiami Craxi. E questa è la condanna a pagare 676.000 euro a Stefania Craxi. Oh, che bello invece sapere, cari amici di Roma, cari romani, non lo so se è tornato il contratto con il carro attrezzi, per cui magari è ricomparso, semmai comparirà a Roma per le macchine in seconda fila, ma sappiate, come ha fatto sapere ieri La 7, oggi ripresa da Libero, con Chiara Pellegrini a pagina 16, che Roma affitta i cassonetti dove si mette l'immondizia e lo fa a peso d'oro. In tanti anni l'AMA, cioè l'agenzia che appunto gestisce la raccolta dei rifiuti, ha affittato, spendendo 30 milioni di euro in 7 anni, i cassonetti. Con la stessa cifra se ne comprava a questo punto il doppio dei 16.500 attualmente posizionati per la città. E invece si sono affittati. Roma affitta i cassonetti a peso d'oro, costava molto meno comprarli. Libero oggi, pagina 16. E va bene, da sentenza della Cassazione, quella per Stefania Craxi, eccola un'altra sentenza. Questa è la sentenza che vale il premio Mani sul volante per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Sono due pagine, per la verità. Due pagine del giorno. Elena Polidori, dirigenti pagati per non lavorare e la RAI è pure beffata, li dovrà risarcire. È la sentenza che riguarda un condirettore, Sandro Testi, nominato condirettore di RAI International, ma poi parcheggiato senza mansioni per diverso tempo. Una sentenza di una causa protrattasi 10 anni. Ora il giornalista, che in verità era stato licenziato dall'azienda perché non si riusciva a farlo lavorare in nessun modo, sostengono il RAI, ma lui ha fatto ricorso, dovrà pure risarcire il condirettore che era stato parcheggiato 10 anni a stipendio di 11.000 euro al mese. Racconta il giorno: una volta era semplice demansionamento, ora è di più, molto di più. La Corte di Cassazione ha stabilito un risarcimento per danno professionale a quei giornalisti RAI che, per effetto del frenetico spoil system politico interno, prima si sono visti nominare in ruoli apicali e poi sono stati demansionati al cambio del colore politico del governo. La sentenza, infatti, nei confronti di Sandro Testi, secondo il giorno, potrebbe aprire come sentenza pilota alle cause di altri giornalisti che nel tempo si sono ritrovati parcheggiati talvolta per anni in quello che a Viale Mazzini, sede della RAI, chiamano lo stanzino delle scope, luogo dove sono passate per qualche tempo grandi firme del giornalismo che sono messe lì dai cambi politici ai vertici del governo e quindi dallo spoil system, come viene definito. Ed ecco allora dirigenti pagati o direttori pagati magari 10.000 euro al mese e ora pure risarciti. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, ciao, continua così, va avanti così, va bene così, bravo, bravo Alessandro, bravo. Grazie. Dici qui tue notizie. Grazie. E noi ascoltiamo. Bene, bene, bene, bravo, grazie, grazie. Va bene, grazie caro ascoltatore. 0246524492 è la segreteria telefonica per mandare anche i vostri contributi e la vostra sigla, grazie, grazie. Allora, il caso De Luca. La bufera De Luca, bisognerebbe dire, come titolo del Corriere della Sera a pagina 4. Racconta Fulvio Bufi, è in un passaggio del capo di imputazione contenuto nel decreto di perquisizione nei confronti di Nello Mastursi, la sintesi di ciò che la Procura di Roma contesta a Vincenzo De Luca. Leggiamolo allora insieme. Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Anna Scognamiglio, magistrato a Napoli e giudice relatore nella fase di merito del ricorso intentato da De Luca contro la sospensione della carica di presidente della regione, abusando della sua qualità e di poteri decisionali in concorso con il coniuge, dunque il marito Guglielmo Manna, e minacciando De Luca tramite Vetrano e Mastursi di una decisione a lui sfavorevole, inducevano il medesimo a promettere a Manna la nomina a un'importante carica dirigenziale nella sanità campana. Insomma, forse vi siete persi nei nomi e nei cognomi, ma comunque l'accusa è questa. Il giudice che doveva decidere sul ricorso di De Luca, insieme al marito e attraverso persone vicine a De Luca, chiedeva una carica per questo Manna in cambio di una sentenza favorevole nei confronti del governatore. Allora Fulvio Bufi tra l'altro racconta le contraddizioni del presidente che sapeva tutto da 2 settimane, cioè sapeva davvero tutto. Ieri ha fatto quella che si definisce erroneamente conferenza stampa, invece era una comunicazione alla stampa. È arrivato, De Luca ha parlato per 13 minuti, non ha accettato alcuna domanda e se n'è andato via. E in questi 13 minuti offre un racconto e manda poi nel web il racconto opposto, col viso truce, la voce impostata nei momenti importanti, senza accorgersi di quanto stia aiutando Maurizio Crozza per la puntata di domani, cita Eraclito e ripesca gli studi classici per esporre in greco la teoria del carattere. Per l'uomo il carattere è il demone. Dice: io sono parte lesa, io conosco solo la manna del cielo, altro che questo manna. E poi ai giornalisti: ho dato più lavoro io a voi di Rupert Murdoch, mi aspetto di essere nominato cavaliere del lavoro. E ancora: combatteremo in maniera ferma nei confronti di chiunque oserà nei prossimi giorni gettare ombre sulla nostra correttezza. E infine: keep calm, dico ai miei collaboratori e al lavoro. Così De Luca, che dunque non fa un minimo passo indietro. Ci sono le intercettazioni, Fiorenza Sarzanini la pubblica a pagina 5 del Corriere della Sera, anzi sì, a pagina 5, la giudice, il marito, le telefonate, mi hanno convocato in regione, dice a un certo punto Vincenzo Manna alla moglie, il giudice Scognamiglio. Dovrebbe essere Napoli 1, gira voce. Non ho chiesto Napoli, ma Avellino, Caserta, Benevento. Sono stato segnato su una specie di block notice. E poi a un certo punto, nel giorno della sentenza, abbiamo finito, è fatta, dice il giudice al marito. E lui non si scompone: credi di essere intelligente, sono tu, e invece anch'io sono furbo. Ora la giudice si difende dicendo: siamo separati in casa, in realtà, io e il marito, che non so cosa voglia dire come giustificazione, forse a dire non lo avrei mai aiutato, ma anche se è separata non è che può... non può aiutarlo. E Libero fa sapere che sono state trovate nella perquisizione a casa del giudice 8 SIM telefoniche. Oh, 8. Cioè io capisco 1, 2, 3. 8 SIM telefoniche. Trovate 8 schede telefoniche, titola Libero. E poi il giudice ripudia il marito. Renzi non parla. Anche se, ma nessuno nel PD parla per la verità. Sì, Esposito ha detto il caso è imbarazzante. Orlando, ministro della giustizia, dice: beh, insomma, non è una delle storie più simpatiche, diciamo così. Però tutti stanno un po' in attesa. Renzi, appunto, non parla, ma i giornali fanno sapere che Repubblica dice: credo che De Luca ce la farà. Credo, eh. La Stampa si spinge un po' oltre dicendo: Renzi difende De Luca ma non a tutti i costi. De Luca invece rilascia un'unica intervista, lo fa con il direttore dell'unità Erasmo D'Angelis e dice: una vergogna, sfido chiunque su trasparenza e legalità. Pagina 3 dell'Unità, eccolo qui, intanto Manna, ed è il solito De Luca, Manna, cominciamo da questo Manna, io conosco solo la manna del cielo, della Bibbia, non so chi sia, che faccia e dove vive questo signore, ci mancherebbe promesse di nomine, è finita la regione delle clientele, l'ho fatta sparire io, le nomine sono istruite dall'ufficio di gabinetto, e però perché il suo capo ufficio politico si è dimesso, Mastursi, mi ha presentato le dimissioni, ma io dico: a me quel nome, Manna, non è stato fatto da nessuno e in nessuna fede. Però sapevi di questa storia, di questa inchiesta? Certo, ma ho mantenuto il riservo doveroso perché ci pareva corretto farlo. Ho chiesto immediatamente di essere ascoltato e ci è stato detto di aspettare la conclusione degli interrogatori e ero in attesa che tutto si chiarisse. E poi dice De Luca: considero i controlli di legalità un bene per le persone oneste, dico alla magistratura: andate avanti senza guardare in faccia nessuno, concludete però in fretta le vostre indagini per non creare danni istituzionali. Dunque nessun imbarazzo, De Luca, imbarazzo, è una nuova sfida semmai questa vicenda amara e sconcertante con contenuti inesistenti. Dimissioni? Ma non scherziamo. Ecco, De Luca risponde così sull'Unità. Questa vicenda la approfondiremo ancora dalle 8:15. Dalle 8:15. Intanto saluto Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Vedo che siamo tornati alle care vecchie abitudini, eh? Vabbè, quindi torniamo, diciamo, a far precedere questa mia sortita da vicende giudiziarie, più o meno onorevoli. Oggi avevi anche una certa scelta, forse c'era di peggio di questa vicenda di De Luca tra le cose che hai segnalato già. Tranquillo, l'abate è già passato. Pensavo anche a questa cosa qua. Senti, veniamo a delle cose però importanti. È tempo, caro Alessandro, che tu ti decida e riporti questi due eurini con la voluntary disclosure, anzi con la voluntary disclosure. Vabbè. Perché se leggi oggi Sole 24 Ore apprenderai che siamo a 79.258 istanze e facciamo 259, hai tempo fino a fine mese, riporta questi due eurini. Tra l'altro gli incassi stanno andando bene per l'erario, perché siamo a 3 miliardi e 200 milioni, l'obiettivo di 4 miliardi è giudicato ampiamente raggiungibile. Ma ti spiega tutto oggi Alessandro Galimberti sul Sole 24 Ore. Mentre, importante, due vicende di banche. Da una parte, sulle pagine di finanza che tu leggerai coscienziosamente, il piano Unicredit, che prevede appunto anche una serie di interventi per quanto riguarda il personale. Quindi investimenti da una parte, cessioni dall'altra, però anche il taglio complessivamente di 18.200 dipendenti. Ti spiegano tutto Luca Davi e Marco Ferrando, e in Italia si prevedono 5.700 esuberi. Questo lo volevo segnalare, poi tutti i particolari non in cronaca come si diceva una volta, ma sulle pagine di finanza e mercati, che tu leggerai doviziosamente, no? Coscientemente. No, coscienziosamente, però non stai attento, accidenti. Invece sono ti seguirò attentamente. Seguimi attentamente. Allora, ti voglio poi dire che si sta trovando una soluzione per i funzionari delle entrate, almeno per quanto riguarda la retribuzione di quelli che si sono trovati retrocessi. C'è un emendamento in legge di stabilità, ne parliamo nelle pagine di norme e tributi, che tu leggerai invece, quelle sì, religiosamente. Certo. Oh, a proposito di letture religiose, ti segnalo che finalmente non devi cercarlo fra i tuoi giornali, perché è arrivato il decreto sul fascicolo sanitario elettronico, è arrivato in Gazzetta Ufficiale, quindi non è lì, non l'hai disperso tu. La cosa è importante perché riguarda la possibilità di avere una sorta di indicazione di identità digitale, grazie alla quale in tutta Italia, da qualsiasi parte tu ti debba rivolgere per parlare con un medico, sanno qual è la tua posizione sanitaria. Adesso però aspetta, perché bisogna che le regioni diano corpo a queste indicazioni nazionali. Se vuoi avviare un conto alla rovescia anche per questo, cominciamo da oggi la prima settimana decisiva, trovi questa notizia insieme a molte altre su norme e tributi che tu leggi religiosamente. Certo. Molte altre cose ti vorrei dire, mi limito a dirti che c'è stato questo stop un po' inatteso sul passante di Bologna, il nuovo passante di Bologna. Penso a tutti quelli che ci stanno ascoltando in macchina, che provano magari a passare proprio da Bologna, dalla tangenziale di Bologna. Beh, insomma, leggete sul Sole 24 Ore uno stop, come si dice, inopinato. E perché te ne parlo proprio ora? E chi lo sa. Ma perché deve giungerti e deve giungere agli ascoltatori l'abituale saluto. Traffico! Alessandro Milan al pota pota dell'informazione. Ebbene, allora, cari ascoltatori, continuiamo la lettura dei giornali. C'è il capo della Spending Review in Italia, Joram Gutgeld, che fa un'intervista al Corriere della Sera. Federico Fubini lo intervista, pagina 9, e parla anche delle dimissioni di Perotti. Mi aveva accennato che ci stava pensando e mi dispiace, anche perché abbiamo lavorato bene insieme. Dovete chiedere a lui le motivazioni delle dimissioni. Preferisco guardare i fatti, dice Gutgeld. In 2 anni, cioè quest'anno e il 2016, abbiamo operato 20 miliardi di tagli alla spesa. E da dove vengono questi 20 miliardi? Beh, 5,8 miliardi per l'anno prossimo, ma gli altri 14,2 provengono dalla legge di stabilità dell'anno scorso, 7,2 miliardi dai ministeri, 2 dalle province, 1,2 dai comuni, 1,5 dalle regioni, oltre che un minore aumento del fondo sanitario di 2,3 miliardi. Così Gutgel, in 2 anni abbiamo tagliato 20 miliardi di spesa, mi dispiace per l'addio di Perotti. Questo lo trovate come intervista pagina 9 del Corriere della Sera. Come trovate la notizia politica, secondo me più interessante, è quella che riguarda il Movimento 5 Stelle, e lo dicono e lo scrivono sia Francesco Maesano sulla Stampa, sia Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, e cioè c'è una svolta per la scelta del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma. Verrà scelto da tutti gli iscritti in tutta Italia. Secondo la Stampa è una scelta voluta da Casaleggio in persona. Non possiamo lasciare la scelta in mano a quei quattro, ha argomentato lunedì Casaleggio in una conversazione con i suoi. Quei quattro sono i consiglieri eletti a Roma alle scorse amministrative. Nelle ultime settimane era apparso evidente, scrive la Stampa, che la partita per scegliere il nome dei 5 Stelle per il Campidoglio si sarebbe giocata tutta lì, in una conta nei meet-up tra Marcello De Vito, favorito, e Virginia Raggi, in ascesa. Uno spazio troppo angusto per Casaleggio, che dunque, dice, sceglieranno non solo i romani, ma tutti i militanti di tutta Italia, 100.000 persone. Questo anche il Fatto Quotidiano: svolta del Movimento 5 Stelle su Roma, per il candidato si vota da tutta Italia, l'annuncio verrà fatto in settimana. Questa è l'anticipazione sia del Fatto che della Stampa. Rimango sulla Stampa perché vi voglio segnalare, anche per la rarità, visto che spesso si dice ma chi sono coloro che combattono il jihad, i fanatici che ci vogliono uccidere, ecco, per la rarità dell'intervista, Domenico Quirico, inviato a Tunisi, ha incontrato uno dei guerriglieri jihadisti che combatte in Siria e che vuole sterminarci. È un racconto molto intenso, molto drammatico e anche interessante dal punto di vista giornalistico, perché per la prima volta Domenico Quirico cerca di farci entrare nella testa di chi ci vuole uccidere in quanto ci considera infedeli. Vi racconto perché faccio la guerra santa agli infedeli. Parla un jihadista, Abu Rahman, professionista della guerra santa, in prima pagina della Stampa e poi il racconto a pagina 2 e 3. Non ho tempo per leggerne alcuni stralci, ma ve lo segnalo. Io, jihadista, vi racconto la mia guerra santa contro gli infedeli. Uccido nel nome di Dio per dovere e non per scelta, così aiuto i fratelli musulmani. Corredato anche da foto, c'è questo spaccato sulla Stampa. Così come vi segnalo, anche qui senza aver tempo per leggerla, l'intervista 2 pagine al presidente iraniano Rouhani, che viene intervistato dal Corriere della Sera a pagina 2 e 3. Sarà sabato a Roma. Dice: possibile una nuova fase tra Iran e Occidente. Intervistato da Viviana Mazza e Paolo Valentino, mi sembra che la cosa più interessante che dica Rouhani è nei rapporti con gli Stati Uniti, è la possibilità che un giorno le ambasciate, quella americana a Teheran e quella iraniana negli Stati Uniti, vengano riaperte. Ma ciò che conta, dice il presidente iraniano, sono i comportamenti, e la chiave di questo ce l'hanno in mano gli americani. Se modificano le loro politiche, correggono gli errori di questi 37 anni e si scusano con il popolo iraniano, la situazione cambierà e buone cose potranno accadere. Parla ovviamente anche dell'accordo nucleare, parla dell'embargo, parla del rapporto con la modernità in Iran. I miglioramenti sociali, dice il presidente iraniano, o nel campo dei diritti dei cittadini, non possono avvenire in una notte, ci vuole tempo. Intervista sul Corriere. Velocemente la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, è una pagina intera di Repubblica dedicata al pane nero. Il pane nero, ma chi è il pane nero che conquista l'Italia? Ma la ricetta divide i fornai. Il pane a base di carbone vegetale. Ma chi se ne frega?